hanno una puttana da fottere, i bacchere dei tipo che le canti, sono una puttana da fottere, a 2-2, giorno di paga, bene o male, un mattone che c'è a festa, io cambio il volto, una puttana da fottere, a 2-2, a 4.